Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica, bentornati a Magazine 24, l'appuntamento con la stampa periodica italiana e straniera. Vi segnaliamo articoli, approfondimenti, curiosità, qualsiasi cosa, insomma, può essere interessante leggere o approfondire appunto attraverso la stampa settimanale o mensile. Ad esempio, una domanda che possiamo farci: qual è il nostro telefilm preferito? Me lo chiedevo perché su Sorrisi e Canzoni TV questa settimana è uscita sono usciti i risultati del sondaggio che appunto assegna la palma di telefilm preferito dai lettori. Allora, il telefilm che ha ottenuto più voti dai lettori di Sorrisi e Canzoni TV è stato Bones. Il Dottor House si è classificato al secondo posto, al terzo Lost. Questi sono i primi, diciamo, i primi tre posti, le piazze importanti, e scendendo molto più in giù poi si trova invece Desperate Housewives, Casalinghe disperate, che è, come sapete, è stato un telefilm assolutamente di culto, magari però più negli anni passati. Anche i redattori di Sorrisi e Canzoni TV, Antonio Mustara, che ha curato questa parte, sono rimasti forse un po' sorpresi dalla vittoria di Bones. Risultato a sorpresa, infatti scrivono del sondaggio di Sorrisi che legge la serie dell'anno. Era la prima volta dal 2007 che questo tipo di rilevazione non premia il Dottor House. I lettori gli hanno preferito Bones, che è una serie crime in onda ogni sabato sera su Rete4. E la classifica poi, naturalmente, come vi dicevo, prosegue con Lost, poi c'è Grey's Anatomy e poi la serie tedesca Squadra Speciale Cobra 11. Trovate naturalmente tutti e 10 i posti, potete vedere anche voi, verificare le vostre preferenze con quelle che sono risultate essere le preferenze della maggioranza dei lettori secondo questo sondaggio di Sorrisi e Canzoni. E quindi i gusti cambiano, il Dottor House ha dovuto cedere il suo primato a un altro telefilm, si è così dovuto accontentare del secondo posto. Un'altra cosa, un altro segnale che i nostri gusti stanno cambiando, viene invece dall'Espresso. Sabina Minardi si occupa dei comportamenti e ci segnala che stiamo cominciando a preferire il bello e imperfetto. Non è il massimo, ma può bastare. Lei utilizza anche due parole inglesi, il good enough, il buono abbastanza, buono quanto basta. Un nuovo standard di valutazione, scrive Sabina Minardi sull'Espresso, che si sta diffondendo nella tecnologia, nel lavoro, perfino nei rapporti sociali. Insomma, sapersi accontentare, potremmo tradurre in un modo un po' forse troppo banale. È un'unità di misura nuova, è uno standard, scrive la Minardi, che la contemporaneità ha accolto prima nell'universo tecnologico e che da lì avanza, si impone, surclassa l'ambito high tech, contagiando ogni aspetto della società. Criterio del sub-ottimo, che consiste più o meno in questo: ok, non è perfetto, ma al momento può bastare. C'è di meglio, ma in fondo si può accettare, perché costa poco, perché non fa perdere tempo. Nota l'antropologo Marino Niola, interpellato sul punto: stiamo tornando dall'universo della precisione al mondo del pressappoco, purché veloce e conveniente. Una tendenza che si vede in giro chiaramente. Del resto, i due poli della modernità sono rappresentati dal low cost, appunto le cose a basso, bassissimo costo, e dal last minute, cioè l'ultimo minuto. Spesso i due termini sono chiaramente abbinati, che non sono più solo modelli dell'economia, ma vere e proprie forme dell'essere. Tempo, prezzo e un tasso di innovazione frenetico, spesso disorientante, sarebbero i motivi che ci muovono tutti quanti a preferire qualcosa che magari non è la perfezione assoluta, ma che in qualche modo ci può bastare. Meno in fondo è di più in qualche caso. Altri esempi che porta Sabina Minardi di come ci sappiamo accontentare in un modo molto saggio: le canzoni in MP3 avranno pure degli sfrigoli di fondo, lo streaming che possiamo fare con la telematica, cioè vedere appunto un programma, un video tramite internet non darà trasmissione di qualità assoluta, i televisori piatti non consentiranno una visione perfetta e così via, ma tutti questi prodotti saranno good enough, cioè buoni quanto basta. E un fisico, il fisico Paolo Magrassi, dice: è un po' come quando troviamo un McDonald's in un momento in cui abbiamo fame, fretta e magari siamo in un luogo assolutamente remoto e a noi sconosciuto. Il mondo di oggi, e qui emerge proprio la notazione del fisico, è diventato troppo complesso, neppure gli scienziati riescono a orientarsi perfettamente, ed ecco perché sta crescendo sempre di più l'esigenza della giusta misura. Quindi ci stiamo orientando a una scelta della giusta misura. Questo è l'avviso, il segnale che ci manda Sabina Minardi dall'Espresso di questa settimana. Invece qualcosa che non ho trovato sui settimanali italiani, se è una distrazione me ne scuso, ma si è celebrata questa settimana che si sta chiudendo oggi, una ricorrenza che non era poi così da sottovalutare. Erano 400 anni dalla scomparsa di Matteo Ricci. Matteo Ricci è stato il pioniere di tutti gli esploratori eruditi in Cina, e quindi è una figura molto molto importante. Però lo ricorda, ohimè, Nouvel Observateur, se ne è ricordato Nouvel Observateur, non ho trovato nulla di analogo sui giornali italiani. Matteo Ricci, tra l'altro, era nato a Macerata nel 1552, era un gesuita, era entrato nella Compagnia di Gesù a 19 anni, è arrivato a Macao nel 1582, ha imparato il cinese, lo ha imparato così bene da poter scrivere uno dei migliori dizionari ancora francese cinese che siano in circolazione. Era dotato, un personaggio quasi mitico, perché era dotato di una memoria fenomenale. Tra l'altro, all'epoca sua era considerato praticamente impossibile imparare la lingua cinese. Lui ci ha messo più o meno 18 anni per farsi completamente accettare da quella comunità, ma è stato alla fine premiato perché è diventato il primo personaggio straniero che ha ottenuto l'autorizzazione di risiedere a Pechino. E tra l'altro, quando poi sarebbe morto, appunto nel 1610, esattamente 400 anni fa, l'11 maggio di 400 anni fa, era il primo a essere stato ammesso nella zona più interna della capitale, che era riservata proprio alle personalità insigni. Dalla celebrazione di Matteo Ricci, tra l'altro, sono dedicati diversi libri. È stato, ripeto, un personaggio molto molto importante. Il suo scopo era quello, naturalmente, di operare delle conversioni, e da questo punto di vista i numeri che lui aveva ottenuto forse possono far dubitare, perché si parla di 2500 persone convertite nel corso della sua opera in Cina. Dice: una cifra modesta, nota Ursula Gautier nell'articolo di Nouvel Observateur da cui ho tratto queste informazioni. Cifra modesta, dice, se noi la compariamo alla media delle missioni, ad esempio, in Giappone. Però Matteo Ricci convertì soprattutto alti funzionari, persone di rango molto elevato, che poi sono stati i veri pilastri, la diffusione del cattolicesimo in Cina, e quindi in un qualche modo la sua opera va al di là del numero, semplicemente le persone convertite. Si è trattato davvero di un mediatore culturale di 400 anni fa, un mediatore culturale italiano, appunto, che viene ricordato in questi giorni con una serie di libri e anche mostre proprio in queste settimane. E allora restiamo in qualche modo nel campo della cultura, cambiando però lingua, cambiando assolutamente regione. Andiamo su Newsweek per parlare di falsi e di falsari. Un talento per il falso è il titolo di un lavoro di Christopher Werth che viene presentato su Newsweek questa settimana. Il lavoro prende le mosse da una mostra che si terrà appunto a Londra sarà dedicata proprio ai falsari, ma questo articolo racconta delle storie davvero divertenti sui falsari di maggiore talento. Ad esempio, sentite questa con cui viene appunto aperto l'articolo. Nel 1947 la galleria Courtauld di Londra aveva acquistato La Vergine e il Bambino, un dipinto che si attribuì a Botticelli. Erano naturalmente molto fieri del loro acquisto, ma subito dopo uno storico dell'arte, il signor Kenneth Clark, fece notare che la Vergine somigliava un po' troppo a Jean Harlow, che era appunto la star dei film americani degli anni 30, e che però purtroppo era nata 400 anni dopo Botticelli, e quindi difficilmente si poteva spiegare questa somiglianza. Sono state fatte delle analisi più accurate, hanno rivelato che il dipinto acquistato come un Botticelli in realtà era stato realizzato dal signor Umberto Giunti, un famoso e talentuoso falsario italiano. Era appunto La Vergine e il Bambino, naturalmente è stato subito tolto dalla galleria ed è stato nascosto, dice, in qualche magazzino fuori di vista. Storie del genere si trovano anche per una copia di un Vermeer, che è stato copiato da invece qui un falsario olandese, Van Meegeren, Cristo e i discepoli di Emmaus. La copia aveva così impressionato coloro che l'avevano esaminata che, quando si sono accorti di chi era l'autore, hanno chiesto al falsario per favore se era in grado di riprodurre di nuovo il quadro per dimostrare che davvero era stato capace di dipingerlo lui così bene. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, siamo stati un po' sui settimanali stranieri, Nouvel Observateur, Newsweek. Torniamo in Italia con un argomento tipicamente italiano, un sondaggio sull'Unità d'Italia. Ce l'ha presentato questa settimana Vanity Fair. Viva l'Italia, viva gli italiani è il titolo. Due intervistati su tre nel sondaggio condotto da Ipsos sono orgogliosi del loro paese e nessuno tocchi le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità. La rubrica, che come sapete viene presentata tutte le settimane da Vanity Fair, è affidata a Nando Pagnoncelli. La domanda era: quanto siamo orgogliosi di essere italiani? Quasi due terzi degli intervistati hanno risposto molto. In particolare, spiega poi Pagnoncelli, i ceti più popolari, le persone più anziane, quanti risiedono al sud. Risultano più tiepidi invece i giovani, i ceti superiori, i residenti nel nord-est. Da un punto di vista politico risultano più orgogliosi gli elettori di centrodestra di quelli di centrosinistra, ma devo dire le percentuali sono elevate in entrambi i casi: 80% per i primi, 60% per i secondi. Quello che forse può sorprendere è che rispetto a un anno e mezzo fa, avverte Pagnoncelli, il sentimento di orgoglio nazionale risulta aumentato, cioè sono cresciuti del 10% gli intervistati che si definiscono molto orgogliosi di essere italiani. E del resto, per il 34% di coloro che hanno risposto, l'Italia rappresenta il primo ambito di appartenenza, quindi il punto di riferimento culturale, in qualche modo quello più importante. Seguono poi la dimensione locale, la regione, il comune e poi la dimensione internazionale, quindi l'Europa o addirittura in qualche caso il mondo. Hanno poi chiesto: secondo lei le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia sono importanti o inutili? Per il 76%, quindi una maggioranza decisamente interessante, importante, per il 76% queste celebrazioni sono importanti per tenere vivo il sentimento di identità nazionale, contrario un 18% che le ha giudicate inutili e di sola retorica. Sul quanto ci si sente orgogliosi vi ho riferito le percentuali, con questo aumento dal 63 al 73%, e l'ambito di appartenenza, appunto, l'Italia è comunque la risposta preferita dalla maggioranza relativa di coloro che hanno partecipato al sondaggio, cioè dal 34%. Insomma, c'è un sentimento, un orgoglio nazionale che sembra molto vivo, almeno a giudicare da questo sondaggio che ci viene presentato da Vanity Fair. E passiamo da un femminile a un altro femminile, perché su Donna Moderna questa settimana si riferisce di un libro che sta facendo molto rumore. Si occupa di un malanno molto importante, che è quello della depressione, ma questo libro ha un approccio assolutamente diverso dal solito, perché appunto si intitola L'industria della depressione, e nel riferirne Antonella Trentin su Donna Moderna titola La depressione è un business. Qual è la considerazione da fare? Quella che viene un po' riassunta anche accanto al titolo, nel sommario accanto al titolo: 40 anni fa la depressione colpiva 100 milioni di persone nel mondo, oggi più di 1 miliardo. Siamo diventati tutti più fragili? No, la colpa è di chi produce le cosiddette pillole della felicità per spingere al consumo. Hanno convinto gli psichiatri a trattare come malattia anche le malinconie o le semplici tristezze. È una tesi bomba, tanto più che a sostenerla è un francese che per anni ha lavorato nell'industria farmaceutica. Questa è l'indicazione che viene data. Nel 2030, avverte sempre la Trentin nel suo articolo, la depressione sarà la malattia più importante del pianeta, supererà le patologie cardiovascolari con costi sociali ed economici enormi. Nel 1970 appunto i depressi erano 100 milioni, oggi hanno oltrepassato il miliardo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto questa stima di crescita così elevata. Si chiede se la Trentin sia la vita che è diventata così competitiva e difficile da travolgerci con questa gigantesca ondata di tristezza. La risposta è no, la società per una volta non c'entra, o c'entra solo in parte. Il boom dei depressi è anche frutto dell'influenza delle multinazionali farmaceutiche che hanno esercitato una sorta di campagna di persuasione di massa che ha portato a prescrivere antidepressivi. Qui la Trentin appunto riferisce le tesi che sono di Philippe Pignard, già responsabile della comunicazione di diverse ditte francesi, che appunto denuncia c'è stata una volontà di allargare il mercato. Ora, al di là della bontà della tesi di Philippe Pignard sulla appunto aver convinto della necessità delle pillole, ci sono anche delle considerazioni nell'articolo della Trentin che sono molto interessanti. Ad esempio il fatto che talvolta si cerca di dare una risposta molto così banale, molto immediata, appunto quella della pillola, a quelli che possono essere degli stati di malinconia o di malumore che possono essere affrontati normalmente da tutti noi. Infatti quello che spiega ad esempio Gianluigi Di Cesare, che è psichiatra e psicologo analista a Roma, nessuno oggi accetta di stare male, vuole subito cancellare il sintomo con un farmaco senza approfondire le ragioni del malessere. Così nella categoria depressione è stato infilato di tutto, comprese normali fasi di melanconia, il normale, spiegabilissimo dolore per un lutto, una separazione o per la paura di perdere il posto. Oggi, per esempio, sono sempre le parole di Di Cesare, siamo circondati da persone che non sopportano il senso di vuoto della vita, hanno bisogno di stimoli continui, shopping compulsivo, i videogiochi, sono in realtà problemi sociali che non possono essere risolti con una medicalizzazione di massa. Questa appunto la critica che si fa alla diffusione troppo facile dei farmaci antidepressivi. E allora, visto che si parla di patologie che in qualche modo dovrebbero riempire un po' l'ansia che non siamo più capaci di gestire, o qualche volta di gestire da soli senza l'aiuto dei farmaci, vi voglio riproporre una cosa che sta su Il, che è appunto il mensile del Sole 24 Ore, ne abbiamo parlato anche nella puntata di ieri, lo trovate in edicola con il nostro quotidiano già da venerdì scorso. Il presenta un lungo articolo molto interessante, una lunga serie di articoli sulla passione del gioco. Il problema è che, come sappiamo, il gioco sta avendo non solo in Italia, ma particolarmente in Italia, una diffusione molto accentuata, ma che qualche volta sconfina appunto nella patologia. Maddalena Oliva ci racconta su Il la storia dei drogati d'azzardo che sono costretti a ricorrere a una clinica per disintossicarsi appunto dalla droga del gioco, e ci sono appunto delle storie che vengono Raccontate dagli stessi pazienti di questa clinica. Uno dice: la prima volta è stata a 16 anni con le slot machine, quelle che in America chiamavano all'inizio banditi con un braccio solo. Il termine sembra azzeccato. All'università, ricorda questo paziente, sono passato al poker, alle scommesse sportive, ero convinto che servisse una certa bravura e abilità. Io, bravo, credevo di esserlo. E poi, come inseguendo un copione che si ripete per tutti uguale, sono arrivati i soldi rubati in casa, tradimenti, violenza. È così la storia di questo agente di viaggio che a 25 anni è a Bolzano per farsi curare con un percorso di terapia riabilitativa appunto da patologia del gioco d'azzardo. Chi ha fondato questo centro è lo psicologo Cesare Guerreschi, che spiega a Maddalena Oliva: in 10 anni di attività abbiamo seguito circa 170 persone. Ogni mese il nostro centralino riceve tra 6 e 7 mila chiamate, richieste di aiuto o più spesso di informazioni. È una piccola goccia in un oceano se si considera che i giocatori patologici in Italia si stima siano tra 700.000 persone e 1.500.000. Il centro è unico nel suo genere, si chiama SIPAC e ha sedi a Bolzano, Roma e Caltanissetta. Ha come riferimento programmi di intervento statunitensi con un'equipe che viene formata da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e naturalmente anche avvocati e commercialisti, che poi aiutano a ridare un senso al denaro. Questa è la segnalazione da venerdì scorso in edicola con Il Sole 24 Ore. E con questa segnalazione si conclude la nostra puntata di oggi. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Ringrazio Paolo Corleoni anche questa mattina con me in regia. Grazie anche a Vittoria Mussini e Margherita Ina che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che potete riascoltare questo, come tutti i programmi di Radio 24, sul nostro sito www.radio24.it. A risentirci sabato prossimo.